Italia. E cosa è successo, no? Che? Ah, ti ho sbagliato un telecomando. Il telecomando è quello sbagliato, tu. Ah. Vabbè, però sì, no. Oh, dimmi, a tu. Sanremo. Come andiamo? Sono senza BM, hai capito? Senza la macchina, l'ho portata stamattina al meccanico e domani mattina mi dirà cosa c'è di grande e grave della macchina, hai capito? Si è tornata a rompere. No, è perché non mi entrava, non funzionava la ventola, hai capito? La ventola di del motore, hai capito? La retroventola, hai capito? Quello che faceva mandare, faceva circolare tutta quanta la questione per non scaldare l'acqua, hai capito? Giustamente non parte la ventola, così è. Ti accappa. Proprio. Sentivo la boccata che mi chiamava. c'è ricambio. Siamo un forte. Antonio, Antonio Pompolo, cosa hai detto? Bergamo Verona. Ah, poco forte, tipo un bel forte come Verona. Ho detto al Leoncino che è un bel forte. Ma guarda tu. Com'è adesso il segnale lì? Ah, ma c'è forte, ho aumentato anche giustamente la radio anche. C'è un bel forte qua. Com'è lui da te, casa tua? Gigi Vulcano. Attento, Gigi Vulcano. Pomponio, ci sei? Antonè. Ma lo sai che aumenta anche la radio, sarà un po' più bella. Vero? Ah. E cappa, già va bene, già va bene. Prepotente sei. Cappa. Perché è già città la situazione, vero? Vabbè, ce l'ho in prova e basta, amico, Otto. Ce l'ho solo in prova, capito? Solo in prova. Non lo puoi prendere. No, negativo, no, negativo, perché... materia prima, hai capito, materia prima non ce l'ho, e se no me l'avrei già preso nuovo, capito? Ma quanto è da 100 watt, altro? Dimmi, G. Sì, da 100 watt. Delle ZG, V 131. Adesso c'è un traffico, un piccolino a 12 volt. Questo da quello che funziona da corrente, da normale, 220 volt. Ah, quella è una valvola, è una valvola, ho capito. E quello, quello, G. Ah, già va bene. Va bene. Non voglia. Com'è il segnale lì, lì a ottava? Come ti arrivo, Gigi? Oh, ti arriva fortissimo. Fortissimo. Ma non è quello di Massimiliano, no? Ma no, no, no, no. Questo è il ricordo di Benito. Ah, già, ma è una cosa da... Non ti lascio la gente. Abbiamo detto tu che la... Non mi chiamo, ma è possibile. Ma te lo me lo ricordo più. Cappa, non ci sono problemi. No, non sto solo provando, capito? Ce l'ho in prestito e dunque non sto solo provando per vedere come esce, capito? Dunque, vediamo un po', ci faccio un pensiero, non lo so adesso, perché materia prima non ce ne sono. Secondo, poi se mi devo prendere uno questo qua, adesso vediamo, come entrano i soldi, me lo faccio ordinare su internet e me lo prendo nuovo. Chi lo fa vedere in natura, cosa vuoi? Che vuole, Leoncini? Non ne vuole? Non lo so, non lo so, non lo so, tu, non lo so. Devo mettermi la cosa con Benito, vediamo un po' quanto ne vuole. Secondo quanto me lo lascia, me lo prendo io, capito? Ma io non so quanto costa. E questo supera i 50. 50 euro supera. Ma quello del quantificatore lì non si può prendere nemmeno 60 euro, 70 euro, non di più, eh. E va bene, adesso vediamo. Adesso tutto il discorso di quella questione là. Se entrano, esci. Va bene, se non mi entrano cash lo ritorno al padrone e continuerò a modulare normalmente come sto modulando, capito? Al limite userò quello il mio, quello piccolino, quello che da 70 watt mi prenderò un alimentatore che faccio andare quello lì e utilizzerò quello lì, capito? Ma Luigi già lo sa, quanto si può pagare una seconda mano così? Nemmeno di 80 euro, così è. Sì. Luigi non c'è più. Va bene, tu dai, ci sentiamo dopo, se concine, se no ti sono super salutato, Gigi, a te e a Antonello Pompolo, dai, ci sentiamo più tardi, se concine, dai, ciao.